dall'isola cubana va la canzone strana che a tutte le negrite appassionate fa portare mille palpiti fino al cuore. Allor che più divina la notte sta vicina, le brune cubanite innamorate se ne vanno con gli ardenti piantatori. Cantando la dolce rumba dal nome strano di talismano e fa più dolce il cuore. Nell'isola cubana al son della baiana accende tutti i cuori di passione la dolcissima canzone dell'amore. Rumba, rumba tabù, si sospira laggiù, chi cerca di scordar la morte non pregò, chi va si vuol negare, ma sente che non può perché la terra è inchiodata e il cielo non splendor. Rumba, rumba tabù, canta tu, dal cielo mille stelle d'or accoglieranno la canzone che porta i cuori un'illusione d'amore. Canta tu, dal cielo mille stelle d'oro accoglieranno la canzone che porta i cuori un'illusione d'amore.